dice. Poi a proposito di lamentele sulla libertà di espressione, beh, diciamo che se noi abbiamo dei problemi, ma ci sono posti nel mondo che ne hanno qualcheduno più di noi. Uno di questi è la Cina, ho risaputo. Ritorsioni dopo le parole del calciatore turco tedesco Özil, ci ha offesi. Cosa ha detto Özil? Ha criticato la Cina per la questione degli uiguri e quindi il calciatore è stato messo all'indice con tutta la sua squadra, tanto è vero che la ritorsione è quella che non verrà trasmessa la partita dell'Arsenal in TV e quindi i cinesi non potranno vederla. Dice il post che è stato pubblicato su Instagram 3 giorni fa: gli uiguri sono guerrieri che resistono alle persecuzioni, bruciano i loro corani, chiudono le loro moschee, mettono al bando le loro scuole, uccidono i loro imam, gli uomini vengono rinchiusi nei campi e le donne sono costrette a vivere e sposarsi con uomini cinesi. La denuncia, che poi coinvolgeva anche i paesi musulmani, diceva: tacciono per viltà, parole che hanno suscitato subito stupore e indignazione in Oriente. E questo è quanto, per cui insomma il risultato è che la partita non si vedrà. Intanto gli USA, rimanendo in tema cinese, gli USA espellono 2 diplomatici cinesi dicendo che sono spie entrate in una base militare, stavano cercando di entrare appunto in questa base in Virginia che ospita le forze per le operazioni speciali. Pechino invece la definisce una vendetta. Infine vado a Praga, dove è stato intervistato il sindaco della capitale ceca, che dice: saremo noi sindaci a sfidare i sovranisti, parte dalla mia Praga un patto per liberare le capitali dell'est. Dice Andrea Tarquini dalla Repubblica: arrivano i Fantastici 4 e lanciano una nuova sfida della società civile agli autocrati sovranisti dell'est. E oggi nella capitale magiara, nella Central European University chiusa dal regime, i sindaci di Praga, Bratislava, Budapest e Varsavia fondano il patto delle città libere, embrione di quello che potrebbe diventare un partito comune contro Orbán, Kaczynski, Babis e quei politici slovacchi così lontani dalla linea anticorrotti della presidente Zuzana Caputova. E quindi gli viene chiesto: evocate la cooperazione che ci fu tra dissidenti polacchi, cecoslovacchi e ungheresi contro le dittature comuniste. È innegabile che allora ci furono degli incontri e nell'89 persino dei concerti organizzati dagli oppositori democratici dei regimi comunisti, così come la cooperazione tra Solidarnosc e Carta 77. Esempi lontani possono aiutare a costruire qualcosa di nuovo, offrendo soluzioni positive ai problemi di oggi, alternative al semplicismo di populisti nazionalisti, governando con rispetto verso i cittadini. Lo strapotere politico e nei media dei populisti è una sfida, ma la storia è dalla nostra parte. Cresce la popolazione urbana e le città, motori di economia, innovazione e cultura, devono prepararsi a contare sempre di più, come Praga, aperta e tollerante nella sua anima storica. Dicevi la Gran Bretagna, il giornale con Erika Orsini dice che i guai ai vinti di Boris Johnson, non solo con l'opposizione, perché adesso, leggo, Boris fa pulizia, via un terzo di ministri, minaccia la TV di Stato. Dopo l'impasto rivedrà trasporti, sanità e immigrazione. Sfida sul canone della BBC, questo dice il giornale di questa mattina. Mentre il Corriere ci parla delle forze armate nordamericane. Gesti razzisti e l'amichevole tra militari. L'esercito e la marina degli Stati Uniti d'America hanno aperto un'indagine sabato sera perché all'amichevole di football tra le squadre di due corpi a Filadelfia, cadetti e marinai del pubblico hanno mostrato ripetutamente alle telecamere il segno dell'ok rovesciato, tipico segno dei suprematisti bianchi, roba da Ku Klux Klan, insomma. A settembre l'Anti-Defamation League, l'organismo di monitoraggio di antisemitismo e linguaggi d'odio, aveva inserito il gesto nella lista dei segni razzisti, ricollegandolo al White Power, il potere bianco. Questo è quello che leggiamo. Torno ancora a qualche notizia invece dall'Italia, perché c'è ancora un po' di cronaca da segnalare. Per esempio questa: studio sulla terra dei fuochi, metalli pesanti nei malati di tumore. Quindi uno può anche negare le conseguenze, ma qualcosa di vero c'è. Uno studio scientifico confermerebbe il legame tra l'illecita gestione dei rifiuti in comune come Giugliano, nella cosiddetta Terra dei Fuochi, in Campania, e lo sviluppo dei tumori in quelle aree. Ricercatori italiani hanno evidenziato concentrazioni elevate e fuori norma dei metalli pesanti come cadmio e mercurio nel sangue di pazienti oncologici residenti nella stessa Terra dei Fuochi. Questo è quanto. Disposto invece altrove, e arrivo alla notizie natalizie, mentre l'ultimo banco, quindi descritto dal Corriere, e Alessandro D'Avegna dice che il presepe ci interroga, ci manca solo quello, non si alza la mattina e gli fa il pastorello: dimmi quanto è lungo il Nilo? Allora stacchi la spina e spegni le lucine. Invece premiata Milano, Sal del Riso, il pasticciere campano che batte tutti con i suoi panettoni, quindi vengono dal sud e ci rubano i panettoni. Christmas, Christmas, Christmas. My back, you're gonna see me coming in a big black Cadillac. Pretty stockings, turn off the light. Santa Claus is coming down your chimney tonight. Elvis Presley nelle canzoni per Natale. Ma cronaca locale, cominciamo con addio al partigiano Montroni dal Carino Bologna. Era presidente della sezione di San Lazzaro, la sindaca Conti, dobbiamo essere alla sua altezza. Si racconta che nel 43-45 era troppo giovane per compiere vere azioni di contrasto al nazifascismo, ma di famiglia antifascista, visto passare dalla sua casa e conosciuto numerosi giovani che da lì poi partivano per la lotta partigiana, e quindi che nel dopoguerra si è sempre impegnato per la democrazia e per la Costituzione. Quindi un saluto a questo compagno che ci ha lasciato. Poi gli altri temi di cronaca locale ci portano al dato elettorale. Per potere al popolo corre Marta Collò, che dice: sarà un megafono per tutti gli sfruttati della nostra regione. 26 anni, candidata alla presidenza della regione Potere al Popolo, movimento politico nato nel 2017. PAP si pone, Potere al Popolo, si pone come alternativa fuori e contro il sistema dei partiti. Nel frattempo, quello che il giornale aveva affibbiato alle sardine viene così descritto invece da Carino Bologna: blitz degli anarchici al banchetto della Lega. Via Marconi, gli antagonisti accerchiano la posizione del Carroccio sotto gli occhi della polizia, la rabbia di Salvini, roba da pazzi. Ma la protesta è continuata senza scontri e nessuno è stato denunciato, perché non si può neanche più dire non sono d'accordo, perché bisogna denunciare. Questo è il rincrescimento del resto del Carlino. La lista Bonaccini piglia tutto, agita i candidati PD. I sondaggi premiano la formazione civica del governatore rispetto ai Dem. E intanto, a proposito di sardine, le sardine ripartono dalle periferie, ma senza presentarci alle elezioni. In attesa delle sardine pronte a riempire anche le piazze delle periferie, la lista civica di Stefano Bonaccini appunto sembra prendere il volo nei sondaggi, tocca il 12% e promette di salire ancora scippando consensi ai candidati PD, sempre più preoccupati. Da Bologna fino alle province, dove il PD è già in sofferenza e dove la competition interna rischia di ridurre ai minimi termini la performance del partito, l'interesse di tutti è che Bonaccini vinca, avverte il segretario regionale Paolo Calvano. È ovvio che una coalizione più ampia vuol dire che il PD eleggerà meno consiglieri, ma questo non deve essere uno sprone, insomma, esatto, va bene. Un grande Bologna, come ci diceva prima lo Spa. Hai un'ultima ora, scusami. Ne ho tre. La prima, torna a tremare il Sannio. Due scosse di terremoto vengono avvertite nella popolazione di Benevento poco dopo le ore 9 di mattina. La prima, secondo una prima stima dell'Italia Nazionale Geofisica Vulcanica, Vulcanology, era di magnitudo compresa tra i 3,2 e i 3,7, la seconda di potenza compresa tra i 3,1 e i 3,6. Altre scosse si sono registrate il 25 novembre scorso. Poi invece veniamo a notizie di politica internazionale, e allora abbiamo: se gli Stati Uniti dovessero imporre sanzioni alla Turchia a seguito dell'acquisto del sistema di difesa missilistico dalla Russia, la Turchia chiuderà le due delle più importanti basi NATO nel suo territorio. E quanto dichiarato il presidente turco Erdogan, se necessario chiuderemo Incirlik e in Kurcizik, ha detto Erdogan ancora. Se imporranno misure come le sanzioni, risponderemo in base al principio della reciprocità. È molto importante per entrambe le parti che gli USA non compiano passi irreparabili per le nostre relazioni. Quindi Erdogan si mette in mezzo tra Putin e Trump e quindi in qualche modo fa da ago della bilancia per riguadagnarci, mentre gioca in Libia e in tanti altri scacchieri. Mentre in Iran si dicono sono 304 morti nelle proteste di novembre, altra notizia tremenda. Andiamo all'ultima notizia, invece più leggera, di aggiornamenti di questa mattina. Svaligiata l'esclusiva villa londinese di Tamara Eccleston, figlia del magnate Bernie Eccleston, prima del patron della Formula 1. Un furto da 60 milioni di euro, qualcosina in casa. Comunque, detto questo, noi ci congediamo e ci complimentiamo con i ladri, anche se non si potrebbe. Noi ci salutiamo, arrivederci e sentirci alla prossima.